Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo ancora una volta, ma ne parliamo in modo costruttivo, di crisi finanziaria. Ne parliamo con il professor Carlo Milani. Buonasera, professor Milani. Buonasera, grazie per l'invito. Carlo Milani è economista presso il Centro Europa Ricerche, inoltre docente presso l'Università di Studi Roma 3, e ha scritto questo libro, Alle radici della crisi finanziaria, origini, effetti e risposte, un libro edito da Egea dell'Università Bocconi. Un libro quindi che parla di una crisi che è iniziata ormai 7 anni fa. C'era ancora bisogno, professor Milani, diciamolo così un po' schiettamente, di un altro libro sulla crisi finanziaria? Sì, la domanda effettivamente può esserci. Il motivo perché mi ha spinto a scrivere questo libro essenzialmente è mettere insieme diverse visioni sulle cause della crisi, perché spesso ci si concentra essenzialmente su un punto di vista che potrebbe essere quello della finanza, essendo una crisi finanziaria, certo, oppure della regolamentazione o di aspetti di politica economica. Quello che ho cercato di fare è mettere insieme diversi punti di vista e dare quindi una visione più ampia della crisi, inserendola anche poi in un contesto storico più ampio rispetto a analisi fondate su pochi anni. Ecco, possiamo dire che questa crisi in fondo è stata provocata da un insieme di fattori, da una sfortunata coincidenza di fattori negativi che hanno poi fatto in modo che questa crisi fosse, lei lo dice, è una delle più gravi, direi, della storia dell'economia, anche con riferimento a quella del 29. Sì, esatto, non direi tanto sfortunata coincidenza, perché in alcuni elementi potevano essere ben compresi e da molti erano anche stati indicati come fattori che avrebbero determinato problemi finanziari un po' in giro per il mondo. Però sì, effettivamente è una crisi che non può essere individuata su una causa o poche cause, ma ci sono moltissime cause che hanno concorso nel determinarla. Ecco, allora lei guarda anche ovviamente all'oggi e soprattutto, per quanto possibile, al domani. Queste cause che hanno determinato la crisi in parte ci sono ancora? Sì, purtroppo ci sono ancora, le risposte date alla crisi le hanno quasi accentuate, e penso soprattutto agli Stati Uniti, perché le risposte sono state risposte soprattutto dalla politica monetaria, dal cosiddetto quantitative easing fatto dalla Federal Reserve, che ha sì permesso di superare senza grandissimi problemi la crisi, senza avere un crollo finanziario generalizzato, però poi ha di fatto messo in moto la potenziale generazione di altre bolle speculative sia negli Stati Uniti, soprattutto sul mercato azionario, ma ancor più potenzialmente un po' in giro per il mondo, verso i paesi emergenti. E ad esempio la crisi cinese che abbiamo visto in quest'estate, o crisi di altri paesi, immagino, penso al Brasile e altri paesi emergenti, molto dipende anche da queste risposte date alla crisi, che hanno inondato di liquidità, che poi si è riversata appunto un po' su tutti i mercati finanziari, determinando spinta alla crescita eccessiva di alcuni prezzi di asset finanziari. Ecco, su questo fronte, diciamo, gli elementi finanziari ci sono ancora, anzi forse sono stati accentuati. Qualcuno ha detto che le medicine che sono state date all'economia per risolvere la crisi hanno in fondo preparato la crisi successiva. Però sugli altri fronti, su quello della regolazione per esempio, si è fatto qualche passo avanti? Qualche passo avanti è stato fatto, anche se in maniera abbastanza disordinata, essenzialmente sul fronte bancario con Basilea 3, adesso con ulteriori variazioni che sono in corso d'opera, qualche spinta soprattutto verso una maggiore dotazione di capitale nelle banche, che prima della crisi era veramente a livelli bassissimi. Adesso si punta a una maggiore dotazione di capitale, anche se a mio giudizio è ancora insufficiente. E poi soprattutto questa regolamentazione è diventata talmente complessa che è difficile valutarla nel suo complesso, e spesso all'interno di questa stessa regolazione ci sono indicazioni contrapposte. Faccio l'esempio dei titoli di Stato: da un lato si dice che i titoli di Stato non sono rischiosi, e dall'altro c'è l'evidenza, ovviamente con la crisi della Grecia, che non è così, che il titolo di Stato può essere rischioso, e dallo stesso tempo si dice anche che per principi di liquidità questi titoli di Stato devono essere detenuti. Quindi c'è una serie di controindicazioni da mettere insieme tutte queste norme, che poi danno modo a una grande confusione. È difficile anche per chi fa la vigilanza poi effettivamente verificare l'ottemperanza di tutte queste regole, che sono, come dicevo, estremamente estremamente complessi. Sono estremamente complesse e sembra quasi di vivere un po' alla giornata, sperando di arrivare al giorno dopo, sperando di poter fare dei passi in avanti in attesa appunto che la situazione possa anche essere risolta, per esempio da una crescita economica ancora molto debole. La crescita economica certamente porterebbe ad alcuni risultati positivi sul fronte della stabilità. Un altro elemento è quello delle organizzazioni internazionali. Lei dice esplicitamente, per esempio, il Fondo Monetario dovrebbe muoversi con molto maggiore efficienza. Ecco, in questo senso i passi in avanti sono stati abbastanza pochi. Sì, su quello pressoché nulli, purtroppo. Lì gioca un po' il peso tra le diverse nazioni, perché dare maggiore importanza al Fondo Monetario vorrebbe dire anche dare un maggior peso ai paesi emergenti all'interno del Fondo Monetario, e purtroppo Stati Uniti da un lato e Europa dall'altro su questo aspetto non sono molto aperti a dare maggior peso ai paesi emergenti, perché spesso in passato il Fondo Monetario poi è intervenuto soprattutto in salvataggio di paesi emergenti, e quindi avere il coltello dalla parte del manico in queste situazioni per i paesi avanzati è ancora un punto che sono difficilmente disposti a cedere. Però un maggior peso del Fondo Monetario, ma così come anche di tutti gli altri organismi internazionali rivolti al controllo e alla vigilanza del sistema finanziario, che essendo diventato globale ha bisogno di organizzazioni globali, sì. Perché anche fare maggiori sforzi in Europa attraverso la Banking Union o negli Stati Uniti o attraverso il rafforzamento delle regole negli Stati Uniti non porta molto avanti, perché appunto i problemi poi possono nascere globalmente e contagiare tutti gli altri paesi. Ecco, a proposito dell'Europa, ci sono alcune pagine che ho trovato molto interessanti sulle ipotesi appunto di uscire dall'euro da parte dell'Italia, di tornare alla svalutazione della moneta nazionale come si faceva nel secolo scorso con la svalutazione della lira per recuperare competitività. E lei spiega appunto che nel commercio estero attuale molti prodotti sono prodotti in cui si intrecciano i rapporti commerciali, sono semilavorati che vanno poi a fornire appunto la base per prodotti che vengono realizzati in altri paesi, e che in fondo una svalutazione di un'ipotetica valuta italiana farebbe più comodo alla Germania, perché avrebbe dei semilavorati italiani da mettere nei suoi prodotti che vende negli Stati Uniti, quindi a minor prezzo. Quindi anche questa ipotesi, diciamo un'ipotesi che potrebbe essere di scuola attualmente, perché lei spiega che anche da un punto di vista giuridico e pratico sarebbe improponibile o difficilmente attuabile, ecco, da un punto di vista economico sarebbe un'ipotesi forse non controproducente, ma con effetti molto più limitati che in passato. Esatto, di fatto chi propone questa idea ha in mente un mondo che non esiste più, un mondo in cui ogni paese produceva i suoi beni e li esportava verso altri paesi. Adesso l'attuale modalità di produzione è basata appunto sulle catene globali del valore, ossia ogni paese produce semi lavorati che poi esporta verso un altro paese che a sua volta o fa degli altri semi lavorati o arriva al prodotto finito che esporta a sua volta un po' in giro per tutto il mondo. Il nostro partner fondamentale è la Germania, cui appunto esportiamo questi semilavorati, e poi la Germania li esporta in tutto il mondo, Stati Uniti, Cina e via dicendo. Fare una svalutazione in questo senso avrebbe poco senso, perché appunto la Germania potrebbe acquistare in ogni caso questi prodotti a un costo più basso, e anche la minaccia di uscire da una catena globale poi non avrebbe alcun senso, perché appunto la Germania sostituirebbe essenzialmente l'Italia con altri paesi che non puntano a una svalutazione per aumentare la sua competizione, e quindi di fatto non porterebbe nessun vantaggio ma soltanto sconquassi finanziari e potenziali default di banche e altre imprese che si sono indebitate in euro, che diventerebbe a quel punto una valuta estera. Certo, sarebbero più i problemi che le soluzioni di fronte a un'ipotesi di questo tipo, un'ipotesi appunto di uscita dall'euro, anche se comunque l'euro va rafforzato, va cambiato, vanno poste in essere, lei dice appunto, degli elementi per esempio sul fronte della condivisione del debito che non erano stati previsti e che sono difficilmente attuabili nella situazione italiana, ma si può pensare di avere delle riforme di questo tipo, di una maggiore condivisione a livello europeo degli elementi finanziari? Passi avanti sono fatti sul fronte bancario, molto meno sul fronte dei debiti pubblici. Sì, purtroppo questo è un vincolo soprattutto politico dei paesi creditori, Germania e altri paesi nordici essenzialmente. Quando si parla di una qualche forma di condivisione di debito pubblico, ma recentemente anche soltanto di condivisione della garanzia sui depositi bancari, che è un altro tassello della Banking Union che ancora manca, la contrarietà politica è fortissima, quindi parlare di condivisione senz'altro è un problema che si riesce difficilmente a superare. Nel libro io ne parlo come soprattutto una soluzione efficace ed efficiente, difficilmente raggiungibile politicamente, ma che ragionando soprattutto in prospettiva di medio-lungo termine porterebbe vantaggi anche per questi paesi creditori, perché sollevare un po' del peso del debito dai paesi periferici che negli anni passati si sono indebitati moltissimo anche per consumare beni prodotti dai paesi creditori, dalla Germania e dagli altri paesi, certo, darebbe un vantaggio per l'intera area. Si ragionerebbe non più per singolo paese, ma si ragionerebbe un po' nell'ottica di uno Stati Uniti d'Europa, quindi con vantaggi probabilmente per tutti quanti. Ecco, siamo in conclusione, professor Milani, direi i problemi sono tanti, lei dice i rischi sono ancora tanti, possiamo almeno pensare che avere coscienza di questi rischi sia fare un passo in avanti nella direzione giusta per affrontarli? Sì, già averne contezza è un aspetto importante, purtroppo poi entrano in moto logiche anche spesso volentieri irrazionali che non spingono a scegliere la soluzione più giusta, ma spesso volentieri la soluzione più comoda. E questo è uno dei problemi anche appunto delle democrazie, che hanno tanti vantaggi ma qualche svantaggio sul fronte delle scelte a breve termine. Ci fermiamo qui, vedremo cosa succederà per la crisi finanziaria, speriamo che si possa parlare in futuro di soluzioni oltre che di problemi, soluzioni che indubbiamente a livello teorico ci sono, ma a livello pratico sono molto più difficili. Grazie al professor Carlo Milani, autore del libro Alle radici della crisi finanziaria, origine, effetti e risposte, edito da Igea Università Bocconi, sono 126 pagine per 24 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.